Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. Dopo la visita a Monsieur de Tréville, D'Artagnan, meditabondo, prese la strada più lunga per tornarsene a casa. A cosa stava pensando per deviare in tal modo il suo cammino, guardando le stelle in cielo, ora sospiroso, ora sorridente? Pensava a Madame Bonacieux. Per un aspirante moschettiere, la giovane donna era quasi un ideale amoroso. Bella, misteriosa, iniziata a quasi tutti i segreti di corte che imprimevano sui suoi graziosi lineamenti una così seducente serietà. La si presumeva non insensibile, il che è un irresistibile vezzo per gli amanti novizi. Per di più D'Artagnan l'aveva liberata dalle mani di quei diavoli che volevano perquisirla e malmenarla, e quell'importante servigio aveva stabilito fra lei e lui quel senso di gratitudine che tanto facilmente assume un carattere più tenero. Già dicemmo che i giovani cavalieri ricevevano senza vergogna regali dal loro sovrano. Aggiungiamo che in quei tempi di morale facile essi non provavano neppure vergogna nei riguardi delle amanti, che lasciavano loro quasi sempre preziosi e durevoli ricordi, come se avessero tentato di conquistare la fragilità dei sentimenti con la solidità dei doni. D'Artagnan non possedeva un bel niente. L'esitazione del provinciale, leggera patina, fiore effimero, peluria di pesca, era sfumata al vento dei consigli poco ortodossi che i tre moschettieri davano al loro amico. Seguendo la strana usanza del tempo, D'Artagnan si considerava a Parigi come in una spedizione bellica, né più né meno che nelle Fiandre. Laggiù lo spagnolo, qui la donna. Dappertutto un nemico da combattere, tributi da riscuotere. Ma diciamolo, per il momento D'Artagnan era mosso da un sentimento più nobile e più disinteressato. Il merciaio gli aveva detto di essere ricco. Il giovane aveva potuto intuire che con un sempliciotto come Monsieur Bonacieux doveva essere la moglie a tenere i cordoni della borsa, però tutto questo non aveva influito per nulla sul sentimento suscitato dalla vista di Madame Bonacieux, e l'interesse era rimasto pressappoco estraneo a quell'inizio d'amore che ne era stato il seguito. Diciamo pressappoco perché l'idea che una donna giovane, bella, graziosa, spiritosa, sia anche ricca, non toglie nulla allo sbocciare dell'amore, e anzi lo corrobora. Da 2 ore Parigi era buia e cominciava a farsi deserta. Suonavano le 11 a tutti gli orologi del Faubourg Saint-Germain. L'aria era mite. D'Artagnan seguiva una viuzza tracciata là dove oggi passa Rue d'Assas, respirando gli effluvi che con il vento venivano da Rue de Vaugirard, esalati dai giardini rinfrescati dalla rugiada della sera e dalla brezza notturna. Giunto in fondo al vicolo, D'Artagnan svoltò a sinistra. La casa abitata da Aramis era situata tra Rue Cassette e Rue Servandoni. Aveva appena oltrepassato Rue Cassette e già riconosceva la porta di casa del suo amico, celata da un cespuglio di sicomori e di clematidi che le formavano al di sopra un ampio cuscino, quando scorse qualcosa di simile a un'ombra che sbucava da Rue Servandoni. Quel qualche cosa era avvolto in un mantello, e sulle prime D'Artagnan credette trattarsi di un uomo. Poi la statura piccola, l'andatura incerta, il passo indeciso gli fecero riconoscere una donna. Per di più costei, come se non fosse ben sicura della casa che cercava, alzava gli occhi per raccapezzarsi, si fermava, tornava indietro, poi tornava sui suoi passi. D'Artagnan ne fu incuriosito. Se le offrissi i miei servigi, pensò. Dall'andatura si vede che è giovane. Forse è bella, oh sì. Intanto la giovane continuava a camminare, contando le case e le finestre. Non era del resto cosa lunga né difficile. Su quel lato della strada vi erano tre palazzi soltanto con due finestre che davano sulla strada, una di un padiglione parallelo a quello occupato da Aramis, l'altra era quella di Aramis. «Per Dio!» disse D'Artagnan, al quale tornò in mente la nipote del teologo. «Per Dio! Sarebbe buffa che questa colomba attardata cercasse la casa del nostro amico, ma parola mia ne ha tutta l'aria. Mio caro Aramis, questa volta voglio vederci chiaro». E facendosi il più piccolo possibile, si riparò nell'angolo più buio della via, vicino a una panca di pietra collocata dentro una nicchia. La giovane continuava ad avanzare, infatti, oltre alla leggerezza dell'andatura, l'aveva tradita qualche colpetto di tosse che rivelava una voce assai fresca. D'Artagnan pensò che fosse un segnale. Intanto, sia che alla tosse si fosse risposto con un analogo segnale che aveva posto fine alle irresolutezze della ricercatrice notturna, sia che senza aiuto estraneo ella avesse capito di essere giunta al termine del tragitto, fatto sta che si accostò all'imposta di Aramis e picchiò con le nocche delle dita tre intervalli regolari. «Proprio da Aramis!» mormorò D'Artagnan. «Che ipocrita! Vi ho pescato a studiare teologia!» Erano appena stati bussati tre colpi che la finestra interna si aprì e una luce apparve attraverso i vetri dell'imposta. «Ah!» commentò l'ascoltatore. «Non alle porte, ma alle finestre. Ah! La visita era attesa. Ecco, l'imposta si aprirà e la dama entrerà scalandola. Benissimo!» Ma con grande meraviglia di D'Artagnan, l'imposta rimase chiusa. Anzi, la luce che aveva brillato un attimo disparve e tutto ripiombò nell'oscurità. Dopo alcuni secondi, due colpi secchi echeggiarono dall'interno. Dalla strada la donna rispose con un colpo solo e l'imposta si socchiuse. Giudichino i lettori con quale avidità D'Artagnan guardasse e ascoltasse. Sfortunatamente la luce era stata portata in un'altra stanza, ma gli occhi del giovanotto s'erano avvezzati all'oscurità. D'altronde, a quanto si dice, gli occhi dei guasconi hanno, come quelli dei gatti, la proprietà di vedere di notte. Pertanto egli scorse la giovane trarre di tasca qualcosa di bianco che la dispiegò in fretta e che si vide essere un fazzoletto, quindi ne fece osservare un angolo al suo interlocutore. D'Artagnan si ricordò del fazzoletto da lui trovato ai piedi di Madame Bonacieux, che a sua volta gli aveva rammentato l'altro trovato ai piedi di Aramis. Che diavolo poteva significare quel fazzoletto? Da lì dove si trovava, D'Artagnan non riusciva a scorgere la faccia di Aramis. Diciamo di Aramis perché il giovanotto non metteva in dubbio che fosse l'amico a dialogare dall'interno con la dama dell'esterno. La curiosità la vinse quindi sulla prudenza e, approfittando della preoccupazione nella quale la vista del fazzoletto pareva immergere i due personaggi che abbiamo posto in scena, uscì dal nascondiglio e, rapido come il fulmine, ma soffocando il rumore dei passi, andò ad appiattirsi contro un angolo del muro, di dove il suo sguardo poteva benissimo penetrare nell'interno dell'appartamento di Aramis. Ma una volta di lì, D'Artagnan stette per gridare dalla sorpresa. Non era Aramis che chiacchierava con la visitatrice notturna, bensì una donna. D'Artagnan però ci vedeva abbastanza da riconoscerne i contorni delle vesti, ma non abbastanza da distinguerne i lineamenti. Nello stesso istante, colei che era dentro trasse di tasca un secondo fazzoletto e lo scambiò con quello che le avevano mostrato. Poi, fra le due donne furono pronunciate alcune parole. Finalmente l'imposta si richiuse. Colei che era fuori si voltò e venne a passare a quattro passi da D'Artagnan, calandosi il cappuccio del mantello, ma la precauzione era stata presa troppo tardi. D'Artagnan aveva già riconosciuto Madame Bonacieux. Madame Bonacieux! Il sospetto che fosse lei gli aveva già attraversato il cervello quando ella aveva tratto di tasca il fazzoletto. Ma con quale probabilità Madame Bonacieux, che aveva mandato a chiamare Monsieur de la Porte per farsi riaccompagnare al Louvre, correva per le strade di Parigi, sola, alle 11:30 di sera, a rischio di farsi rapire una seconda volta? Bisognava proprio che fosse una cosa importantissima. E qual è la cosa importante per una donna di 25 anni? L'amore. C'era d'altronde un mezzo semplicissimo di accertarsi dove andasse Madame Bonacieux: seguirla. Mezzo tanto semplice che D'Artagnan lo adoperò naturalmente distinto. Ma alla vista del giovane, che si staccava dal muro come una statua dalla nicchia, e al rumore dei passi che udì risuonare alle sue spalle, Madame Bonacieux lanciò un piccolo grido e fuggì. D'Artagnan la rincorse. Non era difficile per lui raggiungere una donna impacciata dal mantello. La raggiunse pertanto a un terzo della strada in cui lei si era infilata. La disgraziata era sfinita, non di fatica, ma di terrore. E quando D'Artagnan le appoggiò la mano sulla spalla, cadde in ginocchio, gridando con voce strozzata: «Uccidetemi se volete, ma non saprete nulla!» D'Artagnan la risollevò, cingendole la vita con il braccio, ma sentendola pesare quasi stesse per svenire, si affrettò a rassicurarla con parole di devozione. La giovane donna credette di riconoscere il timbro di quella voce, riaprì gli occhi, gettò un'occhiata sull'uomo che le aveva messo tanta paura e, riconoscendo D'Artagnan, gridò di gioia. «Ah, siete voi! Siete voi! Grazie, mio Dio!» «Sì, sono io. Io che Dio ha mandato per vegliare su di voi. Era con questa intenzione che mi seguivate?» chiese con un sorriso civettuolo la giovane donna, in cui l'indole alquanto canzonatoria riprendeva il sopravvento, dal momento che ogni timore le era passato, riconoscendo un amico in colui che aveva scambiato per un nemico. «No», disse D'Artagnan, «no, lo confesso. È il caso che mi ha posto sulla vostra strada. Ho veduto una donna bussare alla finestra di un mio amico.» «Di un vostro amico?» interruppe Madame Bonacieux. «Certamente. Aramis è uno dei miei migliori amici.» «Aramis? Cos'è?» «Ma via, volete dirmi che non conoscete Aramis?» «È la prima volta che sento pronunziare questo nome.» «Allora non è lui che andavate a trovare?» «Neanche per sogno. D'altronde l'avete veduto. La persona a cui ho parlato è una donna.» «È vero. Ma questa donna è un'amica di Aramis.» «Non ne so niente.» «E se abita da lui?» «Ciò non mi riguarda. Ma chi è?» «Oh, questo non è un segreto mio. Cara Madame Bonacieux, siete affascinante. Ma al tempo stesso siete la donna più misteriosa. Ci perdo, forse? No, anzi, siete adorabile. Allora datemi il braccio. Molto volentieri. E adesso accompagnatemi. Ma dove andate? Lo vedrete, visto che mi lascerete alla porta. Bisognerà aspettarvi? Sarà inutile. Ma tornerete sola? Forse sì, forse no. D'Artagnan offrì il braccio a Madame Bonacieux, la quale vi si appoggiò tra il sorridente e il tremante, e entrambi raggiunsero l'estremità di Rue de la Harpe. Giunta colà, la giovane parve esitare, come già aveva fatto in Rue Vaugirard. Tuttavia, da certi indizi, parve riconoscere una porta e, accostandovisi, «E adesso, signore», disse, «è qui che ho da fare. Grazie mille della vostra onorata compagnia che mi ha salvata da tutti quei pericoli ai quali sarei stata esposta da sola. Ma è giunto il momento di mantenere la vostra parola. Sono giunta a destinazione. E non avrete più nulla da temere al ritorno, soltanto i ladri. E vi par poco? Che cosa possono rubarmi? Non ho un soldo addosso. Dimenticate quel bel fazzoletto ricamato con tanto di stemma. Quale? Quello che trovai ai vostri piedi e che vi rimisi in tasca. Guardatevene bene», esclamò la giovane con una serietà che fece rabbrividire D'Artagnan suo malgrado. «Oh, non impicciatevi per nulla in ciò che mi riguarda», esclamò la giovane con una serietà che fece rabbrividire D'Artagnan suo malgrado. «Non cercate di aiutarmi in quel che faccio. E questo ve lo chiedo in nome dell'interesse che vi ispiro, in nome del servizio che mi avete reso e che non dimenticherò finché vivo. Credete piuttosto a quanto vi dico. Non occupatevi più di me. Per voi io non esisto più. Se poteste vedere il mio cuore a nudo», disse D'Artagnan, «vi leggereste tanta curiosità che avreste pietà di me, e tanto amore che appaghereste immediatamente la mia curiosità. Non si ha nulla da temere da chi ci ama. Parlate troppo svelto d'amore, signore», disse la giovane scuotendo il capo. «Niè che l'amore mi è venuto in fretta e per la prima volta, e non ho neanche 20 anni. La giovane lo guardò di sfuggita. «Sentite, sono già sulla traccia», continuò D'Artagnan. 3 mesi fa, per poco, non ebbi un duello con Aramis per un fazzoletto uguale a quello che avete mostrato alla donna che era in casa sua. Per un fazzoletto cifrato allo stesso modo, ne sono certo». «Signore», disse la giovane, «mi importunate parecchio, ve lo giuro, con queste domande. Ma voi, signora, così prudente, pensateci. Se foste arrestata con quel fazzoletto addosso e ve lo trovassero, non sareste compromessa? Perché mai? Le iniziali sono le mie. C.B. Constance Bonacieux, oppure Camille de Bois-Tracy. Silenzio, signore. Ancora una volta, silenzio. Ah, se i pericoli che corro io stessa non vi trattengono, pensate a quelli che potete correre voi. Io? Sì, voi. Rischiate la prigione, rischiate la vita a conoscermi. Allora non vi lascio più. Signore!» disse la donna supplicando e giungendo le mani. «Signore, in nome del cielo, in nome dell'onore di soldato, in nome della cortesia di gentiluomo, allontanatevi. Ecco, sta per suonare la mezzanotte, è l'ora in cui sono attesa». «Signore», rispose il giovane con un inchino, «non so rifiutare nulla a chi mi prega in questo modo. Siate soddisfatta, mi allontano, ma non mi seguirete, non mi spierete. Rientro a casa immediatamente. Lo sapevo che eravate un bravo giovane.